scappa così di girella? Sì, positivo, sono andata al dentista. Aia, non è una cosa piacevole, dai. Cava, e sono in compagnia di Marco Condo, di Giulio, poi c'era Natalino, non so che figlio ha fatto. Ah, ok, va bene. Come detto, saluto a tutti. Cappa. Giulio, io. Come mai 78 plus? Ti è tirato fuori da qualche scatto? Sì, allora, da dentro la scatola dovrebbe essere 12, ne ho, in tutto ne ho 12, compreso anche il grande, là. Per cui, cosa me ne voglio poi? Cosa me ne faccio di tutte queste cose? Mi stanno anche scocciando perché mi prendono un po' di posto, anzi un po' troppo di posto. Mi sembra che incomincio a smerciare. E fai bene. E faccio bene, sì. Cosa me ne voglio? Ma tanto è sempre la stessa frequenza, per cui quando te ne tieni due, c'è anche l'abbondanza, due, tre massimo, là, proprio per variare un po', ma poi tutto il resto non serve a niente. Sono debuttati inutilmente, comunque, nel tempo, sia ben chiaro, non li ho sprecato, nel tempo li ho spesi. Ah, Gianni. Ciao Tonino. Ammazza. Beh, sempre con Galaxy, sì. Ma certo, ho lavorato fino adesso. Mi sono fatto un bel mobiletto, mi sono fatto che. Mi a casa già. Mandami la foto. Aspetta, devo uscire fuori per farti la foto. Mi ho dato color muga, no? Ah, allora basta. Milomi a Tonino Kawasaki. Milomi! Beh, ma cosa? Mi si sembra un nome di chimezzino. Perché mandami la foto oggi? Il correttore gli hai dato, Tonino? Per vedere come l'hai fatto. Vabbè, dai, un attimo, lascio fuori, faccio la foto e te la mando. Il colore suo l'ha fatto, hai visto? Il colore mio? Sì, io sei color nuovo, non tu. Io sono agliastro. Agliastro, sì. Ah. Anche sono un bettuccio. Già t'abbasci. Poi, pizza basso, ho sempre abbassato i nastri. Come non ti sei mai abbassato? Ma che sei tu? Che sono le cuffie? Non ti interessa? Ah, mi sembra tre mani in faccia. Anche quattro te ne posso mettere io. Quattro mi sono mai. Vai, fidimi dire che non ce n'è persone frequenza. Cosa sì? Non ce n'è persone frequenza che mi sono abbassato. Vabbè, nei vecchi tempi già hai fatto la bravola. Io ho rotto sempre le mani a tutti. A me non me le hai mai rotte. Vuol dire non me l'ha dato mai l'opportunità. Ma non lo so, io ero abbastanza tenero e sono ancora tenero, però va giù già fuori fritto sempre. Che va giù da una schiumata in fritta? Mattino sì. No. No, Claudio non sì. Vedi tu. Dunque, io non ho mai rispettato nessuno, chi mi ha rotto le mani le ho sempre rotte io, punto. Chi si è comportato bene, mi sono comportato bene. Ma io mi ricordo una volta a mezzanotte ti ho suonato la porta, di quanto eravamo incazzati, sia io che tu, e però poi ce l'abbiamo bevuta ed è finita lì. Chi sono? A mezzanotte. Aspetta, ho riescato qua. Tonino, ti do un suggerimento, si chiama Natalino. Non penso proprio a Natalino, a me, ma c'è quanto la Ianna. Vai, ne voglio zicco di Natalino. Vai che te ne varia la massa, te ne varia, vai. Prima facessi le risce, gatto, e poi toccava la cinta io, la Ieti. ma com'è che la Ianna è abita, me? Si salve chi può, Claudio, sono, vai, sto usando il baracco, ciao Giulio, buonasera. Cazzo, quanto sei diverso, mamma mia, Claudio. Baracchini sono, come dice qualcuno con due R. Guarda, questo, se lo chiamo, continuo a chiamarlo baracchino, ma è un po' meglio che un baracchino, ma per me sempre baracchino è. Però la radio è quella, non c'è niente da fare, quando io modulo la K è quella, e boh. Segnale buono, Cla, però la voce preferisco più quella che hai presente. Già lo so, Io oramai ce li ho, me li tengo, dai. Avanti, Giulio. Ciao Cla. Ciao Tony. Vabbè. Ma non voi ci siete stasera. Giulio, se no si scherza qua. Non ti passa più. Passo giù, stavo ricordando a Tonino i vecchi tempi degli anni Ottanta. Bisogna che rinfreschi un po' la memoria qualche giorno. A chi ne avevo combinato di gotti e di grudi. Solo che lui adesso è diventato, siamo diventati grandi, non si è, lei è diventato, siamo diventati grandi. E quindi possiamo solo raccontare. Però di la verità, erano bei tempi. Erano qui, erano bei tempi, sì. Erano bei tempi, sì. Bei tempi, sì. Vabbè, dai, facciamo girare. Avanti, Gianni, riprendi. Cava. Oia, che sciamania di Ravuzza. Fatevela passare, pace e bene a tutti. Gianni, la forza c'è sempre. L'abbiamo messa a parte, giustamente. Però, se qualche duro rompe le palline, un po' di olio di gomito, Cavagala. Vabbè, ma l'hai rifinito il mobile, l'hai anche verniciato. Allora, è passato l'impregnante, gli devo dare soltanto la cera, capito? E devo mettere due maniglie e poi e devo mettere i piedi. Te lo posso far vedere aperto, perché sono fuori rotto le cose impregnate, capito? Ma perché mi innesca, vaffanculo, dai? Avanti. Ah, cazzo, qualche cosa. Ecco, l'ho messo più giù il microfono, adesso va bene. Lascialo così, lasciato lì che va bene. Via. Ho sentito a Giulio che c'ha troppa roba, se ne vuole disfare un po'. Comunque, Giulio, io sono interessato a qualcosa, se hai qualcosa posso venire incontro. Vabbè. Solo che io in tutti questi anni non ho mai venduto niente, ho solo regalato un po' di cose così a mia nipote, che a proposito Gianni domani mi porto l'antenna originale, domani, così vedrò di piazzarla, solo che mi mancano i tubi perché la vorrei mettere dall'altra parte e un tubo non riesco a muoverlo, perché essendo inserito uno dentro l'altro, evidentemente la ruggine me l'ha bloccata e non riesco a liberarlo, dunque non posso metterla alto. Vabbè, pazienza. Sì. No, stavo dicendo Tonia, me lo fai un mobile a me. Basta che tu mi dici le dimensioni, altezza, larghezza, profondità, e come lo vuoi. Se lo vuoi quei scaffali, quei cassetti, non c'è problema. Io lo so, vedi tu, fammi un progettino e vediamo un po'. No, io non ti posso fare un progettino, io te lo faccio a modo mio. Tu mi devi fare il progettino come vuoi, o dimmi tu le dimensioni e io ti faccio il progetto, per vedere la lunghezza, larghezza e profondità. Beh, le misure di un tavolo alla cucina, 120x80, è più che sufficiente per me, per quello che ho io. Poi anche i ripiani si possono utilizzare, no? Tutto si può utilizzare. Mi hai detto la misura, scusa? 120x80, penso che vada bene, così quando mi stanco lo uso come tavolo per mangiare. 120x80, altezza? 80? No, sì, 120 lunghezza e 80 per larghezza, giusto? Altezza? Altezza sempre 80, perché la sedia è 45, dunque il tavolo vuole 80, la scrivania però vuole 75, 70 anzi, la scrivania, ma questo io domani lo posso utilizzare anche come tavolo per mangiare. Quindi tu vuoi una scrivania? Non va bene come altezza, Claudio, 80 cm il tavolo. A me mi sono fatti i lacrimi. Claudio! Da un mobile si uscita una vacca la magnata. A me tu mi sono fatti i lacrimi. Ma su giù, aio Luca, non ce la faccio più, per favore. Ma come fa un mastro lascia, con la M maiuscola a domandare una cosa a Tonino, dai! Io faccio l'obbite, capito? Me fai da te. perché grazie a uno non si può ordinare un nome che subito che cazzo, Gianni, ma te immagini. Comunque qua non c'è di ammavigliarci, perché devi sapere che Giulio ha una certa età, avrà anche l'altrusi, ha vanito, che d'altro. Ti spiego anche un'altra cosa, siccome in questo periodo io mi fa male, ho l'ere del disco, e allora ho chiamato a mio nipote a pulirmi un po' qua al giardino, a farmi certi lavoretti eccetera, mi sono dato 50 euro dalle 9 sino all'una e lo accompagno e buh. Già va bene, già va bene, ma già ce n'è anche, vabbè, tuo nipote, ma già ce n'è anche che prendono meno. Oia, oia, qua il mio lavoro, le mie baggi, perché io le chiamo baggi, scrivanie, queste se le sognano, queste sono meglio di scrivanie, ma tutto il lavoro qua me l'ha fatto Giulio, tu mi capisci? Me l'ha fatto Giulio, un lavoro a regola d'arte, adesso sto completando l'altra parte perché sono aggiunte un po' di radio e quindi devo completare, però se te l'hai fatto tu già va bene, dai. Ma Giulio, non fa più mille domande, perché se no me ne scendo le lacrime, mi metto a piangere, riprendi e fai girare. Allora c'è la Gianni, Gianni, vorrei un indirizzo di qualcuno di me che ti ha fatto un nome a te, quello con i sportivi. Oh Claudio! Eia! Mica ti stavo parlando prima, pensavo che non stavo uscendo. No, mi ha chiuso quello lì. Oh già, un secondo, faccio la foto, te la sto mandando. Eia, ma dico, ma ha chiuso quello che gli ha fatti a me, non c'è più. Come non c'è più? C'ha chiuso la caspita. E quello che ti ha fatto ieri, quello per i giornalisti, per lo stereo, va bene quello? Quello va bene quella? Sì che va bene, già resiste, già va bene, dai. Oh, yeah. Per tutto va bene. Ma i materiali sono scadenti, quello che usava, quello che ha chiuso, ho capito già. Tutte di queste basi sono come il giorno che le ha piazzate, lucide, ma lucide, affinché sono diventati lucide, sempre lucide. E se no quel piano che non mi ricordo, quello per mettere sul parchetto che hai fatto, quello quando ero via Pasqua, quello è una cosa micidiale. Tu immagina, l'altra volta sono salito, quando ho smontato tutte le radio, sono salito sopra qua, sopra il tavolo, sopra quel banchetto per verniciare il cassone dell'avvolgibile, con Giulio. Altro che fare. Vabbè, quel piano tuo è stato verniciato con la vernice come si deve. Se tu vai a casa a vedere la scala in legno che ce l'ho qua, 17 anni già, e ci passo tutti i santissimi giorni con le scarpe, per cui tu vedi per dirti se c'è un graffio, nulla, la vernice è sempre bella, brillante, di lusso, eppure ci salgo tutti i giorni con le scarpe, sia io che i miei, e non solo quelli, tanto per dire una, no? Siccome mia moglie adesso no, in questo periodo naturalmente per il fatto del coronavirus non sta facendo più niente, però ha fatto per anni la scuola di maglia e salgono le donne per andare in bagno, che ti puoi immaginare, viene una di Bucodorra che fa un trattore, andata a seccare, mamma che donna pesante, nel senso che il culo di Bucatella. Tu dici, nonostante tutto, la scala è veramente in perfettissime condizioni con quella vernice lì. E siamo lasciati un accordo, vernice buona, vernice un bel buona. Già, rilancio Riccardino che mi sa che voleva dire qualcosa. Cosa hai detto Riccardino? Non ho capito. Dico la verità, mi è uscito di testa. Aia, aia, la tua età, queste cose. Hai detto che non stavi uscendo, sì che stavi uscendo, però con quel microfono lì manuale ti devi avvicinare, altrimenti ti sento basso, capito? Poi con l'altro, quando attacchi l'altro, allora è diverso. Vai già. Ma c'è anche Natalino, Natalì. E dai, io sarei un attimo nel tuo rischio, che sto facendo cosa qua. Gappa, gappa. Claudio. Dica. vicino a queste parti, sto provando un microfono. Com'è? Bassa la radio, capì? Un bel bassa. Che microfono è? Capsula microfonica, molto bassa, no? Poi bassa, microfono normale ma bassa. Rispetto ad altri microfoni normali è troppo bassa. Palacto che sto usando qua in lab. E sto provando una capsula microfonica. E questa è più bassa dell'altra sicuramente. Mi sono ricordato. Dimmi, Gabi. Cambiare la capsula o Gabi, metti la capsula di quell'altro microfono, quello che c'avevi prima, a vedere se ci va. Dimmi, Reca. Comunque, saluto Gabino. Volevo dire, ma tu, perché volevi prendere la prima scrivania? Babbo, la presa è super arrivata, e come arriva me la metto in camera? Sì, mi ho finito il piattaforma poco fa. Ho messo le rotelline per spostarla, capito? E volevo fare una modifica. La cassettiera la devo mettere dall'altra parte, perché altrimenti mi dà fastidio con le radio, capito? Però va bene, bella. Ci ho già messo il computer sopra, tutta la roba che c'era, dai, che mi serviva a spostare. Ho capito, anch'io devo fare una modifica, mi devo andare a comprare i ripiani. Domani mi sembra, in questi giorni vado a comprare i ripiani e me la metto da posto. Va bene, va bene, siamo qua, dai. Allora Gianni, con X, Natalino mi pare che era con X lo stesso. Avanti Giulio, poi non so chi c'è altro. Antonino c'è. Boh, mi era sembrato il sentire Natalino poc'anzi. Boh, vediamo se c'è, chiamiamolo. Natali. Sì, sono qua io. Ok, Tony. Sì, sì, sì. RKD, che intenzione hai di comprare ripiani, hai detto? E che ripiani ti servono? Tipo la brico, mentre i ripiani per metterli sopra, che sopra ci metto i barattini, quelli che non uso, che uso poche volte, e alla base ci metto le stazioni base. Ho capito, ma cosa ti prendi? Di quelli in titolare, di quelli rivestiti? No, non so come si chiamano, di quelle... non mi viene il nome mio, ti mando la fotoclasse, mi sai dire il nome, perché non me lo ricordo proprio, e me lo dici se te lo ricordi. Sì, cerco di ricordarmelo, mandami la foto, cerco di ricordarmelo, per vedere come si chiamano queste due piani. Va bene, vai, mandami la foto, vai andare qua, poi te lo dico io quali sono. Sono lì, dove vanno con l'intricionare i ripiani per mettere la radio? Non ti ho capito. Se vanno bene con i ripiani intricionare che vengono la bricome per mettere la radio? Intricionare? No, io uso a mente, me l'ho levigato. Ne compro già i pannelli da bricome e poi me li taglio io, ho già la circolare da banco, poi c'ho... la toccatrice in legno, c'è l'attrezzatura, voglia. Giulio, alla fine sono il lamellare di faggio. Bravo, è quello che ti volevo consigliare io. Quelli devi prendere, quelli lì devi prendere, costano un pochino, però devi prendere quelli, perché quelli intricionari non li prendere perché non vanno bene. Quelli in albette li devi colorare perché sono bianchi, dunque quindi direttamente quelli, e quelli gli dai una passata di impregnante e rimangono bellissimi come il legno. E infatti io li passo impregnante. Certo, con l'impregnante escono bellissimi, anche perché il faggio ha diverse tonalità, no? Siccome con lui sono fatti al distellare, che si intende pezzi tagliati a pezzi e poi uniti tutti insieme, incollati tutti insieme, e dunque hanno una fibra e colore diverso l'uno dall'altro, e quando tu gli dai l'impregnante diventa un bel mosaico di colori. Ho sentito Porto Torres in lontananza. Ciao Eugenio, ben ascoltato. Eh sì. No, perché sto usando il 78 Plus, Enrico. Già ti avevo sentito, ma stavo parlando con Riccardo, già ti avevo sentito anch'io. Avanti, Enrico. Perché mi ho preso un po' di coso, un po' di cemento e un po' di acqua e ho fatto l'impasto. E mi sono impastato, non mi senti adesso? Ha detto che ha fatto l'impasto. Incredibile. Va bene, dai, vai tu lì. Ho cambiato il baracchino, anzi birichino, il birichino ho messo. E peggio per te. Va bene, dai, adesso mi faccio capire, dai, adesso mi faccio capire, adesso mi capisci. Non so che non è la solita modulazione, se è il baracchino questo. È a Londra, sto usando un baracchino 78 Plus. Sempre stazione base, sto cercando per arricchirmi il mobile che ho fatto. Ah, io ho capito. No, di stazione base ne ho due io. Poi un Cobra, Cobra 139, e poi ho il Comstat 25B valvolare. Quello ce l'ho. Ma quello valvolare è solo quello lì senza accenderlo. Mi sembra che lo tiro fuori domani e lo faccio funzionare, se funziona ancora, perché dopo è qualche annetto senza essere acceso. E poi si rovinano giù. Quando l'apparato rimane fermo anni, cavolo. E l'altro qual è quello da base che hai? Il Cobra 139. Cobra 139. Quanti canali ha? Io l'ho trasformato. Quello è nato con 23 canali, però io ci ho messo una quartiera e l'ho fatto diventare 37 canali. Capito. Vabbè, a me piace quelli tutti illuminati, quelli strani. Lo so, le basi mi piacciono anche a me, sempre quello, cioè mi piacciono anche le basi. No, ma io questo avevo i quarti che avevo, ci ho messo quelli e sono riuscito a ottenere 37 canali, magari cambiando qualche quarto, perché fa da 1 a 37, cambiando qualche quarto probabilmente riesco a avere anche il canale 40, 38, 39, 40, non lo so, dovrei fare un po' il conteggio e la sintesi dei quarti, tra quelli di trasmissione e quelli di ricezione, perché già ne ho ancora un po' di quarti, ma non so quali ci vorrebbero per arrivare al canale 40. Vabbè, un giorno proverò. E comunque c'è scritto su quarti, la frequenza. Sai cosa mi è successo poco fa, giù? Un attimo, Eugenio, dimmi, Tony. Oh! Lo so, me l'ha detto. Ciao Eugenio, ciao. Stammi bene. Anzi, entra in frequenza dalla stazione fissa, così chiacchieriamo. Sì, così è, Tony, capito Tony? Ho messo questa quartiera che poi viene attivata tramite un altro potenziometro e sono diventati 37. Però tutto sommato mi sono forse anche pentito, perché prima era originale, 23 canali, allora non è più originale, però il vantaggio è che ho 37 canali. C'è un po' di canali in più. No, vabbè. Da sai cosa mi è successo stasera? Dimmi. Sono andato a Media World, volevo buttare un po' di soldini, quando ho visto il telefono come ce l'ha mia nipote, vado lì, chiamo la commessa, tanto vuole questo telefono, 249 euro, sì va bene, venga con me, andiamo vicino alla cassa, ah più mi devi pagare 19 euro per una pellicola, ascolti, si piega il telefono e va a far culo, cioè c'è un prezzo imposto 2,49 e tu mi fai pagare 2,49 più 19 euro, ma non puoi dire. E per quale motivo ha fatto così? Perché dice che c'era in più una pellicola che si mette nel telefono. Innanzitutto la pellicola costa una cazzata, 3 euro decidisi, prima base, l'antigraffio. Ma a me ripeto, tu guardi, posso spendere, andare giù e comprare anche 600 euro, non me ne ha fatti uno perché i soldi ce li ho. Però mi ha fatto il principio, 2,49, prezzo scritto, va a casa più 19 euro, ma per lui se lo obbediente. Ognuno fa quello che vuole, è incredibile. E cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Non so cosa dirti. Ho fatto bene che me ne sono andato. Eh beh certo. C'era una portantina però. Era Massina. È l'amico mio, il signor Portante, lo conosco da un sacco di anni. Ma non ci dà fastidio a noi, vero? No, non ci dà fastidio. Ah, poi giù, ha detto Tonino che deve riempire la scrivania, ci dico quella che è già piena. Guarda, per realtà che ci vogliono due Galaxy Saturnetto uno sopra l'altro. Spazio ne ho quanto ne vuoi, guarda. Come altezza e come profondità e larghezza è uguale al Galaxy Saturnetto. Solo ce ne vogliono due, uno sopra l'altro per arrivare all'altezza. Ehi, ce n'è posto qua, voglia. Io il numero che ho fatto è 1,20 m di altezza, a farti conto. 90, tanti scaffali belli larghi, questa... Possiamo andare con la quant'è quello che hai fatto tu in Giulio, con la parete quant'è tu? Perché la sopraelevata è più corta, è al centro. Quanto è 1,50 m? Ah, Giulio, faccio anche Giulio. Sì, era qua. Non mi ha fatto lui le basi. Guarda, la stanza vuota, l'ho detto, Tom, arrangiati, io devo fare così e così. Forse io fai il dubbio, è arrivato a fine al mondo. Pazzesco, bellissimo, veramente molto interessante. Io ho una stanza tutta mia però, Io ho proprio una sala radio. Dove io sto qua e nessuno può entrare, tra l'altro. Ma io ti posso dire una cosa, non so una volta che ho ripreso, e in pochissimo tempo ho potuto, però voglio fare ancora. Certo che sì, se uno ha voglia di riprendere, riprende, se a voi devi ascoltare, basta una cazzata e boh. Ieri notte qua, stavo parlando con Capellue, ma un questione serio, perché stavo parlando della morale dai miei genitori e morale sui genitori, cose serie. E tanto che una coca pulisce la portante, c'è un rumore strano di fondo. Alla fine che stava continuando a assistere, ha detto, beh, giù, cioè, Gianni, io me ne vado in quel tipo, guardo la televisione, spiego tutto e tanto. Mamma Giovanna, usare umano, da un macco. Cioè, stavo dicendo delle cazzate un colpo, ma cosa fai ancora se ho serio di quelle persone che ti vengono a mancare di famiglia e uno ti mette la portante? Ma che pesce sono, ma non se ne andata. Niente, ho spento, Clara, ha detto, ancora questi livelli siamo. Oh Clara, ci sentiamo dopo che devo piazzare quella cosa. La parica, va bene, siamo qua, ancora bizantinesi. Non è cambiato niente, no? Ma è tornato un po' di casino dal momento che c'è stata questa quarantena, tutti ne hanno tolto i baracchini, va dentro le cantine, hai capito? Perché se noi eravamo 4-5, qua su 10, io non ho mai mollato, mai. Io da sempre, sempre con questa radio e sempre, anche avendo altre frequenze a disposizione, io preferisco sempre scambiare due chiacchiere qua. Però quando capita mi sposto anche in banda amatoriale. Però c'è sempre il guasto di turno, purtroppo. Ma tutto sommato sono ricco. A me il baracchino non mi dà né da mangiare né da lavorare, quindi non mi frega niente. Se non si può, con qualche amico che è fuori, giustamente, mi dispiace, solo quello e basta, non altro. Poi, scoprendo chi è, allora la cosa cambia. c'è che, a un certo che punto, cioè, insomma, a fine, secondo chi è, ha filato il Belacuzzi, oh, vabbè, basta, capito? Ma comunque, niente, ho chiuso, mi sono guardato un po' in televisione e poi mi sono pensato. Ma giù va, usa qua, ma Marco, ma che fai, vabbè. Io sono perdo, bisogna mettere lì. Non c'è più nessuno qua. Io lasciatemi fare, io sto cercando di mettere la foto, stavo spostando, ma anche la sera mi fa male quanto è pesante. Una cassettiera che è piena di roba, microfoni, cavi, di tutto che è. Ho messo a fianco la l'altra base, uscia. Porta mia, dove sto? Beh, non ti sbarazzi di niente. No, Tony, oh. E mi conosci 40 anni, quindi no, è difficile che io tutte le radio, tutte le HF o 3 HF grandi per fare base amatoriali, le V e le U lo stesso base, io non ho un veicolare, io ho tutto a base, io ho le V e le U da 100 watt della ICOM, ho tutto ICOM, IESO e Kenwood, capito? Non ho niente di un amplificatore HF da 1,5 kW e poi c'ho tutta l'altra parte che praticamente tutti i baracchini vintage base, l'unico che non ho base è il Cobra, però diciamo che si difende abbastanza bene, abbastanza massiccio, però tutte le altre radio io ce le ho basi, ma tutto a base, non ne voglio baracchini e veicolari io. Vabbè. Fa più che altro qualche un'oretta che non devo fare niente, mi fa compagnia, fare un piccolo conversione con gli amici, tutto qua. Poi, quando tutto verrà regolarizzato, qualche brasiliano si può anche prendere lei. Sì, io già me lo sto prendendo la mattina con qualche amico, non c'è problema. Mascherina, facciamo due chiacchiere a distanza e via. Beh, io in 40 anni ho creato una cosa bella che avevo sempre. Mi è sempre piaciuta la radio, tutto quello che ho messo qua, poi dando un buco vuol dire so che la faccia il testamento anche lui. Vabbè, accetto che a mio figlio questa roba non gli interessa, non gli piace proprio, si venderà tutto. Come attrezzatura di lavoro, diciamo, li fai da te, eccetera, c'ho tutto, anche troppo, ma un me, il triplo, il quadruplo, sto sempre comprando, fate tomata, non posso sempre costruire altri mobili per mettere l'attrezzatura, sono stanco. Per passare un po' qualche mobiletto, siccome c'è uno spazio libero, ma adesso mi faccio un peso di giù, ed è quasi finito, mi manca mettere il pannello dietro, le maniglie e i piedi. Adesso il passaporto la cera, adesso va a posto. E cosa vuoi fare, Fra? Ormai gli anni stanno avvicinando. Gli anni stanno camminando per tutti. Va bene, va bene. Chi c'è rimasto qua su 10? Io, parlate. Sì, ci sono io ancora. Ma aspetta che spiego, sono fischia qua. Ecco qua, che avevo l'altro baracchino acceso, se no fischiava. E uno vuoi fare? È chiaro che gli anni passano e la vita cresce. Però era bello, caspita, mi ricordo quando avevo 20 anni, anche la vedo, sempre correndo stavo, non mi fermavo un attimo veramente, anche quando uscivo per andare in un posto, sempre correndo, e poi visto, da voi mi è toccato fare un burro a piedi, e vabbè, il tempo è mai passato, vai Tony. E ti ha chiamato poco fa Claudio? Giulio. Cosa hai detto Tony? Che Claudio ti ha chiamato poco fa, non hai risposto. Ehi, perché sono entrato nell'altra stanza che stavo ritirando un po' di roba qua, perché avevo un po' di cose in mezzo ai piedi, perché faccio sempre così, non so cosa fare, allora per passare il tempo incomincio ad aprire lo scatolone, guardo dentro, tolgo, rimetto dentro e così via. Adesso ho preso e ho fatto un piano di scale e l'ho portato su in massata, per cui ho rimesso a posto il 78 plus. Ah, avanti, Cla. Va bene, va bene. E già abbiamo i baracchini, abbiamo Mario Bieno, per carità. Quanti soldi buttati a volte. Io questo l'ho fatto, mi serve per fare attività, e attività non è vostra. Adesso l'ho letto giù. Oggi ho aumentato il vento, se no dopo pranzo lo facevo, vabbè, che alle 3 avevo appuntamento con Roberto per portarmi la, questa scrivania a casa, sulla base del PC, col fiorino, perché nella macchina non ci sta. Però ho visto che si è messo un vento per fare quel lavoro dell'antenna, devo spostarla dove sono le direttive, la sposto lì davanti, la tiro su bene, metto qualche tirantino, non si sa mai, ma è due a rimbeccio e due a maestrare, giusto per, tanto lì sono staffe a muro di quelle robuste, il tubo è da un pollice e mezzo, telescopico, anzi è da due pollici a un pollice e mezzo, quindi già va bene, però oggi tra l'altro non avevo voglia di fare niente, quindi ho fatto questo lavoro proprio per mettere un po' d'ordine qua, se no avrei lasciato tutto mezzo ai bici. Vabbè, riprendi Tony, dattimi un secondo, però io vado a bere, c'è una setta allucinante, bevo un po' di coca. Allora, bravo. Eia. Dopo 15:20, per favore, per pronto. Eia. Bravo, ciao a tutti, ti aspetto lì. Ciao. Ok, buon avevo già Coca-Cola, dai. Avanti giù. Ok. Vabbè. Adesso lui ha letto Coca-Cola, però bisogna vedere se effettivamente Coca-Cola mi torni. Oh, il colore magari è uguale più o meno, ma... Ma non penso che Claudio sia tipo da vino, dai. No, invece Claudio se si deve bere un bicchiere, se beve proprio un bicchiere di vino, penso che lo preferisca a tutte le altre cose. Sono convinto che così. Naturalmente non le abusa, sia ben chiaro, questo già lo sappiamo. Però se si deve bere un bicchiere di vino, perlomeno quando pranza, si beve proprio un bicchiere di vino, ad esempio, lo preferisce senz'altro alla birra, ad esempio. Io sono proprio a stemi, non bevo nulla, manco Coca-Cola mangiata, pensa un po', roba gasata, zero. Sì, roba gasata io già ne ho bevuto abbastanza, però non bevo alcol, non ho mai bevuto alcol, non ho mai fumato, non so come accogliere un viaggio della sigaretta, di alcol poi non ne parliamo perché io non bevo nemmeno la birra, perché per me possono asfaltare tutte le vigne, le possono anche asfaltare, perché intanto a me non mi riguarda proprio, perché non ho mai bevuto e non berrò mai alcolici, perché non mi piace di proprio, nella maniera più assoluta. Certo, una lanciata, una Coca-Cola, una gazzosa, un bicchiere, queste cose già me le sono bevute e me le bevo continuamente, però roba alcolica, niente di niente. Io l'ultima sigaretta che io fumavo, l'ho fumata esattamente il 10 aprile 2015. Ma io ho fatto tanti anni di sport, Tony, e dunque non ho fumato né mai bevuto, ma non solamente per il fatto che ho fatto sport, ma per il fatto che non mi piace, non mi va proprio il sapore né della sigaretta e tantomeno quello dell'alcol, assolutamente no. Ma io da quando ho smesso, sì, no, mi fa schifo, anche solo l'odore. Io se c'è una persona che si avvicina a me, mai vista, come apre la bocca, questo ha fumato, e io mi sposto, sento già l'alito, per carità, no. Ma è così, uno che smette di fumare poi dopo un bel po' di tempo è come lo sente la sigaretta, quando lo fuma non se ne accorge. Sì, infatti è così. Lo so, no, a me non è mai piaciuta la verità, né fumare né bene. E ho fatto tantissimi anni di sport, per cui era anche un controsenso che io facessi, per dire, dello sport e del sacrificio, per cui magari che so io andare a bere alcol o fumare, no, non avrebbe avuto senso. Va bene, dai, adesso gli passo la cera con il mobiletto, dai, così almeno a domani è asciutto, gli metto le maniglie, il pannello di dietro. Ok, dai, giù. Comunque, se vuoi dare qualche cosa, ripeto, io non ho problemi, così ti svuoto un po' di roba, dato che si pieno. Ok, dai, giù, ci sentiamo più tardi, sì, stammi bene, saluto il circolare che c'è in ascolto. Ok, ciao Tony, sì, non va a vedere anche mio nipote, così mi porta la Game Master originale che io gli avevo dato qualche tempo fa, perché io sto usando sempre l'antenna autocostruita, come la Game Master stesso, perché ho fatto le stesse misure, però domani mi porta la originale, mi porta, me la restituisce un ragazzo che abita a Calbunia, si fa la passeggiata e viene a Sassari e mi porta l'antenna originale, e poi appena che trovo un po' di tempo la piazzo, però mi devo comprare di nuovo qualche pezzo di palo, perché la devo mettere in alto come la prima, la mantova tubo, perché un tubo che ho fatto a cannocchiare, avendolo lasciato inserito dentro per un po' di tempo, si è arrugginito, e non sono riuscito più a farlo scorrere. Pazienza, compreremo un tubo nuovo, non è un problema. Bravo, ciao Tony, alle prossime, a più tardi se coincide, se no a domani. Ciao, grazie per la chiacchierata. Ok, ciao Giù, alla prossima. Ciao a tutti. Mi pare che ci sia. Pronto? C'è qualcuno? Oh, chi è? Chi sei? Perché sei così in basso? No, non ti ho capito quello che stai dicendo, sei troppo basso il radio. No, negativo, guarda che non c'hai il mic in chiuso, apri qualcosa, rifighi. Ti sento oggi, pure entrato questo in banda laterale, sei bassissimo in radio. E mettere più 5. Rosa? Se non ce n'è più, è molto molto basso. Non ti sento di radio, c'è la radio bassissima, proprio bassa. No, non riesco a copiarti, il segnale è il tuo, Santiago 9, ma la radio è bruttissima, bassa. Cazzo, non avevi più 5 da venduto, cabaretto vai. Cazzo, se avevi una radio spettacolare, cazzo, ragazzi, si farà dublo per la brasia. Massimiliano. Oh, Gavi. Ascolta, guarda a vedere questo microfono come va. 1, 2, 1, 2. Avvicina trombe dalla bocca. Sì, è abbastanza vicino alla bocca. 1, 2, 3, 1, 2. Così se tu avvicini bene, va bene. Io e l'altro, Vabbè, quello che ti ho dato io è questo. No. Adesso provo quello che mi hai dato tu. Vediamo come esce. Un attimino, prova, non so se va bene gli attacchi, ma provalo comunque. Prova, Gavi. No, stai innescando. Non stai uscendo. Gavi, non stai uscendo di radio, se sei tu. Massimiliano, non va bene il tuo? Sicuramente avrà diverse connessioni, capito? basta che proviamo un altro microfono. Ma dimmi tu, perché sto coglione manda laterale qua. Oh, capi, a me. Massimiliano, guarda questo, 1-2-1-2. Questo potrebbe andare meglio, no? Il radio com'è? La radio può andare, capì, può andare questa. Ma questo stiamo parlando del tuo però, dell'Intec, giusto? L'Intec, sì, dell'Intec. 1-2-1-2. Ecco, adesso di radio un po' c'è, prima era proprio bassa, però te lo devi mettere proprio vicino alla bocca, No. Quale grosso sto provando? Aspetta che c'è stato qualcuno che è entrato, cos'è? Che ci sto provando un microfono di quelli professionali, quelli che si usano per la musica. 1-2-1-2. Addirittura, poi già va bene, no? Chi è che vuole entrare? Avanti? Boh, vabbè, forse ho sbagliato io, no? Sì, va bene, va bene. Boh, adesso vediamo di metterci qualche capsula qua. Adesso mi guardo l'impedenza e vediamo un po', dai. Comunque con questo microfono esce bene, dai. Sì, o se no passi da Torino, te lo bigli, 14 euro. E te lo prendi, un Midland, quello con la capsula 4190, esce perfetto. Ti dà solamente la capsula? No, ti dà tutto il microfono completo, che ha solo la capsula. Adesso mi ricordo se costa 14 o 15 euro. Ah, e non sai da quanti ohm è la capsula, no? Non lo so, Gavi, sono domande che... Non te lo so dire da quanto è. Domande tecniche sono. Va bene, dai, comunque con questo è abbastanza pulito, anche chiara come voce, no? Sì, se non fosse stato un pelino più forte era stato meglio. Ah, ecco, va bene. Vabbè, sì, va bene. A dopo, dai, sono in ascolto. E intanto vieni su. Quello là, provato, dai. E quale, Massimiliano? Quell'altro baracchino che hai. No, non ho provato, no. Ho provato il tuo, ma non va bene. No, la radio, vedete come usciva. Non ho avuto modo, c'è un casino qua sul banco. Adesso io proviamo un seguito, dai. E ok, va bene. Ne ho un altro di questi microfoni. Aspetta che lo provo un attimino velocemente, dai. Vediamo un po' com'è questo. Ricordati che memorizzati l'audio di questo, dai. Andiamo, vai, prova l'altro. Chi è? Asco, spostati nel canale. Vai nel canale 30, Eugenio Gavino, spostatevi dal 30, che qua c'è un tipo in banda laterale che vi sta completamente annientando. Canale 30. Allora, questo è il Cobra con il Turner Expander 500. Sta modulando con 10 watt e 50 modulati. Sentito, mi hai fra. Allora, attento 10, c'è qualcuno? Attento 10, c'è qualcuno su 10? Avanti, Robe. Ciao già, qualcosa? Sono anche di adesso, Massimiliano doveva fare roba, Claudio va a portare il cane, Franco si è andato via per mangiare, insomma un po' tutti se ne sono andati. Come sta andando questa radio, Roberto? No, ti ascolto bene, che radio è? 3009, dai, con l'EB più 5. No, bella chiara, potente, dai, una bella radio. Ciao ragazzi, vai, va bene. Molto amplificata, ti posso dire se sei troppo amplificato, se aspetti un attimo te lo dico. Via. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, già va bene, se ne trovi i limiti, dai. Ok, questo è un altro microfono, non è il solito mio. Questo è l'ultimo acquisto, ho preso un Superstar 2009, mi ho abbinato l'MV5. E adesso Adesso sto provando. Ma i toni come ce li ha? No, li ho già regolati i toni, me li hanno regolati, devi servire il topo, cazzo, qua mi fa una beffa. Me l'hanno regolato in Claudio e forse Massimiliano, mi ha detto che così è l'unica posizione che va bene. No, no, non sono riuscito a toccarli, volevo capire come ce l'ha regolati, a metà chiuso, aperto. A sette, Roberto. Quindi c'hai esaltati gli acuti, ce li ha. Cioè esaltati gli acuti, così.